Radio. Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura oggi la questione dei trasporti eccezionali. Ricorderete a Annone Brianza, in provincia di Lecco, lo scorso ottobre il cedimento del cavalcavia al passaggio appunto di un trasporto eccezionale. Il crollo provocò la morte di un automobilista. Da quel giorno gli enti proprietari delle strade hanno negato o rallentato le procedure per concedere l'autorizzazione al transito di questi carichi particolari, con ricadute pesanti per la continuità produttiva di molti stabilimenti, soprattutto in determinate aree come per esempio la Lombardia. Dopo mesi il Ministero ha emanato una direttiva che riordina un po' l'interpretazione della normativa e fornisce linee guida più chiare alle quali fare riferimento. In particolare la direttiva impone agli enti di istituire e pubblicare il catasto stradale della rete viaria di loro competenza. In sostanza si tratta di una mappatura di strade, ponti, sottopassi e cavalcavia. Ma a questo punto in concreto cosa cambia per i trasporti eccezionali? Lo abbiamo chiesto a Sergio Dondolini, che per il Ministero delle Infrastrutture è responsabile della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. In particolare, per quanto riguarda i trasporti eccezionali, l'aspetto fondamentale è che ci siano le caratteristiche di percorribilità della strada, quindi praticamente la capacità portante, le informazioni necessarie appunto al tempestivo rilascio delle informazioni. Quindi avere la possibilità di inserire in rete questi dati e di pubblicarli è qualcosa che rende anche alle aziende di autotrasporto la possibilità di individuare i percorsi nel modo più adatto e idoneo alla circolazione, e comunque anche all'ente proprietario, una volta appunto che ha fatto tutte le verifiche e i monitoraggi sulle opere, anche a accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il catasto stradale è stato introdotto per legge nel 2005 con la riforma del codice della strada, ma nonostante siano passati 12 anni, non tutti gli enti proprietari delle strade hanno ancora adempiuto all'obbligo. Diciamo c'è una situazione abbastanza variegata, quindi diciamo alcuni hanno adempiuto a questo adempimento previsto dal codice della strada e altri no, insomma, quindi nel qual caso comunque anche la stessa direttiva prevede comunque, ecco, proprio per agevolare questo processo, diciamo la principale preoccupazione è evidentemente la sicurezza, e quindi che i trasporti siano autorizzati in modo coerente con e compatibile con la conservazione delle sovrastrutture, con la stabilità dei manufatti. E a proposito di sicurezza stradale, nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto ACI Istat 2016 sugli incidenti. Lungo le strade italiane l'anno scorso sono morte 3.283 persone, praticamente una media di 9 al giorno. Si tratta del 4,2% in meno rispetto al 2015. Restiamo comunque lontani dall'obiettivo posto dall'Unione Europea di dimezzare entro il 2020 il numero dei morti rispetto a quello registrato nel 2010, quando furono 4.000. Oltretutto la tendenza positiva registrata nel 2016 pare smentita dai dati ufficiosi dei primi mesi del 2017, secondo i quali il numero dei morti della strada è tornato a salire. Un dato saliente riguarda l'incidenza della mortalità tra i cosiddetti utenti deboli della strada, cioè pedoni e ciclisti, sfiora il 50%. Su questo punto sentiamo Lucia Pennisi, coordinatrice dell'ufficio studi di ACI. Pedoni e ciclisti sono, diciamo, tra gli utenti deboli, sono i più deboli, ecco. Ancora nel 2016, i dati sono stati appena diffusi, abbiamo avuto un miglioramento della situazione per i pedoni per quanto riguarda la mortalità. Sono diminuiti del 5,3%, ma i ciclisti, i morti ciclisti sono aumentati, abbiamo perso 275 ciclisti lo scorso anno in incidenti stradali e l'aumento è del 9,6%, quindi un aumento rilevante. Voltiamo pagina, divieto esplicito del riposo in cabina per gli autisti in caso di violazione, la responsabilità a carico dei datori di lavoro e quali devono essere comminate sanzioni adeguate. E ancora, l'autista deve dichiarare sui documenti di bordo dove intende trascorrere il riposo, dove lo ha già trascorso, quindi di quale struttura ricettiva è stato ospite. È uno dei punti più significativi contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato in risposta alla comunicazione dell'Unione Europea in tema di periodi di guida massimi giornalieri, questione inserita nell'ambito del pacchetto Europa in Movimento. Già in alcuni paesi, per esempio in Francia e in Germania, vige il divieto di riposo sul mezzo. Si tratta di provvedimenti adottati per fronteggiare il fenomeno del cosiddetto dumping sociale, che da anni determina forme di concorrenza sleale praticate in particolare dai vettori dell'Est Europa. L'emergenza climatica di queste settimane si riflette anche sul mondo dell'autotrasporto. Il gran caldo e la siccità hanno infatti aumentato la domanda di acqua minerale e condizionato il mercato dei prodotti ortofrutticoli. Si tratta cioè di due categorie merceologiche che al 90% viaggiano sulle strade, strade già arroventate dal traffico intenso verso le località di villeggiatura. A proposito, sabato prossimo sarà giornata da bollino nero. Sul fronte dei prodotti ortofrutticoli in particolare, secondo Coldiretti, il 2017 sta facendo segnare un record dei consumi con un aumento stimato del 10% rispetto allo scorso anno. Claudio Donati, segretario generale di Assotir, fa il punto su questa estate particolare vista e vissuta dagli autotrasportatori. Questo ha implicato sicuramente una richiesta di acqua maggiore del solito per i famosi problemi collegati alla siccità. Le temperature elevate hanno prodotto una anticipazione ed un'accelerazione della maturazione dei prodotti, che ha determinato un eccesso di offerta di prodotto sul mercato italiano. Quindi diciamo una difficoltà da parte dei produttori, degli agricoltori in modo particolare, a piazzare i prodotti sul mercato. E noi in questo siamo ovviamente lo strumento essenziale per consentire che gli ortofrutticoli possono arrivare a destinazione, al consumatore, ai grandi centri di smistamento, eccetera. C'è una ulteriore anomalia quest'anno che probabilmente al grande pubblico sfugge, ed è il fatto che soprattutto i mercati europei, a causa del clima che è completamente diverso al di là delle Alpi, l'estate europea è stata molto piovosa, molto fresca, e quindi questo ha abbassato la richiesta di prodotti agricoli, soprattutto di alcuni prodotti agricoli, tipo per esempio il cocomero, l'anguria, con un danno ovviamente soprattutto per i coltivatori, ma in qualche maniera diciamo ha anche contribuito a diminuire la richiesta e quindi la richiesta di servizio di trasporto. E ora torniamo a Taranto e alla crisi dell'Ilva. Nelle scorse settimane avevamo raccolto il grido d'allarme dell'autotrasporto della provincia e non solo, dopo la decisione del Tribunale di Milano che aveva negato alla categoria la prededucibilità dei crediti maturati nei confronti dell'azienda prima del gennaio 2015, quindi prima dell'amministrazione controllata. Parliamo di una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Nei giorni scorsi un emendamento al decreto Mezzogiorno ha ripristinato la prededucibilità, ma non è scontato che gli autotrasportatori alla fine vedranno veramente i loro quattrini. Per questo Giacinto Fallone di Casa Artigiani predica prudenza, lo abbiamo sentito. Bisogna vedere intanto se attendere che il giudice Macchi invia tutte le aziende la chiusura dello stato passivo, a quel punto potremo presentare l'opposizione e presentare l'emendamento che il Parlamento ha votato. A quel punto bisogna vedere se il giudice lo accetta intanto. Ammesso che lo accetti, che lo speriamo tutti, poi bisogna vedere il problema economico, perché l'Ilva è commissariata, ha delle risorse molto risicate. Comunque non so se riuscirà a pagarci interamente le cifre e in che tempi, perché loro hanno soldi in cassa pochi. Loro puntano al passaggio a Mittal e poi con i soldi del fitto degli impianti di poter pagare i fornitori, ma adesso con questa prededucibilità è vero che hanno salvato noi, ma hanno pregiudicato ancora di più i conti, perché praticamente devono andare a riconoscere a tutti gli autotrasportatori d'Italia, non solo a quelli di Taranto ovviamente, la prededucibilità. Poi ci saranno i ricorsi delle imprese dell'indotto. Una delle autostrade più trafficate dai mezzi pesanti è indubbiamente la A22, l'Auto Brennero, cioè l'autostrada che collega il nord-est al cuore dell'Europa. Da domani sulla A22 il divieto di sorpasso per i tir, fino ad oggi in vigore solo nelle ore diurne, è esteso all'intera giornata, quindi vale anche di notte. Un provvedimento fortemente criticato da Anita, come si legge in una nota diffusa dall'associazione, misure di questo genere penalizzano il nostro sistema logistico riducendone la competitività, di cui la proposta per compensare i disagi e i rallentamenti al traffico causati dai divieti di sorpasso notturno. Anita chiede a favore dei mezzi pesanti una riduzione del pedaggio autostradale, appunto per i transiti durante questa fascia oraria. Con hashtag autotrasporti oggi mi fermo qui, noi andiamo in onda tutto agosto, è ormai una tradizione, quindi appuntamento a lunedì prossimo 13.45. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.